Torniamo in voce, torniamo in collegamento con il presidio di Torino davanti all'aula bunker dove si tiene la prima udienza del processo a Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, i quattro compagni Notav, e stiamo in corrispondenza con un altro compagno. Pronto? Ciao, ciao. Ciao, buongiorno. E con te appunto per continuare a parlare del presidio che abbiamo sentito molto partecipato e anche insomma dei quattro che avete potuto vedere finalmente. Sì, il presidio è molto numeroso, adesso non sono bravissimo a contare, ma ci sarà qualche centinaia di persone fuori dall'aula bunker, che per chi non conosce Torino è un luogo abbastanza fuori dalla città, anche un po' scomodo da raggiungere, quindi insomma una presenza molto molto buona. Dentro l'aula abbiamo visto i compagni, c'è stata questa particolarità che Niccolò, Claudio e Mattia sono arrivati abbastanza presto, sono stati messi in 3 gabbie separate all'inizio dell'udienza e Chiara non appariva. Abbiamo scoperto che è stata praticamente tradotta oggi da Roma, l'hanno portata stamattina in aereo e quindi è arrivata in aula bunker tardi, alle 10:30, per cui l'udienza è stata inviata, sospesa per una buona mezz'ora, 40 minuti, perché i giudici volevano naturalmente che Chiara fosse in aula. Quindi quando è arrivata l'abbiamo salutata, come abbiamo salutato gli altri, c'era un clima molto caloroso e dopo un primo momento insomma i quattro sono, invece che in 4 gabbie separate, sono stati messi in una gabbia insieme, per cui si sono potuti rivedere dopo tutti questi mesi e insomma erano molto contenti, come tutti immagineranno. E qua fuori c'è un bel clima, ci sono vari interventi, insomma tantissimi striscioni e non si ha ben l'idea di quanto durerà l'udienza, non credo molto, sarà un'udienza iniziale, credo che per ora di pranzo dovrebbe finire. L'altra questione che bisognerà capire nel corso della giornata è se i quattro verranno riportati, dove verranno messi, insomma, se verranno lasciati nel carcere delle Vallette, proprio di fianco all'aula bunker, adiacente all'aula bunker, o se invece verranno tradotti in altre carceri. Però questa cosa qui immagino che la sapremo nel pomeriggio, gli avvocati dovranno parlare con i giudici e capire questo aspetto qua. Certo, appunto la presenza, dicevi, è abbastanza corposa. Stamattina ci raccontavano di turni dentro l'aula, perché non è possibile ovviamente entrare in un numero, insomma c'è un numero preciso insomma di posti dentro, e continua ancora questa presenza solidale anche dentro l'aula? Certo, sì certo, sì, c'era una fila enorme per entrare, che facevano entrare inizialmente 30 persone, poi siamo riusciti insomma a entrare in una cinquantina contemporaneamente, però fuori c'erano state qualche centinaia di persone che volevano entrare, per cui la cosa sensata era quella appunto di star dentro 20 minuti e permettere un po' a tutti di entrare e di salutare i quattro, e ai quattro di vedere più facce amiche possibili. Quindi adesso c'è ancora la fila con la celere schierata che fa entrare 3 persone alla volta, 3 persone escono, 3 persone entrano, c'è questo tipo di filtro qui, però va bene, bene così, che ci sia tutta questa gente in fila. Senti, sentiamo, ci sembra di sentire uno spicheraggio sotto la tua voce. Sì, adesso c'è un impianto, si stanno facendo vari interventi per insomma parlare per l'ennesima volta di come il tentativo della Procura di Torino con questa inchiesta di mettere all'angolo 4 compagni con queste accuse molto pesanti, di dividere il movimento, questo tentativo sia completamente fallito, perché insomma immagino che tutti si rendano conto che la risposta è andata molto bene, il movimento è rimasto unito, compatto, non ci sono state le spaccature che molte volte si verificano in casi di questo tipo. I quattro sentono la vicinanza di tantissime persone, continuano a ricevere una quantità di corrispondenza enorme, per cui si sta ribadendo che questa di oggi è l'ennesima dimostrazione insomma che quello che avevano in testa Padalino e Rinaudo e chi li ha istruiti su questo processo qui non sta funzionando da questo punto di vista per niente, anzi ha avuto un effetto boomerang. questo è il punto centrale, secondo me, un po' della, della solidarietà della questione. Invece, insomma, dicevamo già stamani, la, come dire, l'ordine della Corte di Cassazione per il Tribunale del Riesame di rivedere, insomma, questa finalità di terrorismo su cui tanto ovviamente abbiamo discusso, ancora non ha portato conseguenze sul processo. No, lì è poi, ecco, è una questione, sembra abbastanza complicata, complessa, cioè nel senso... Il primo passaggio, da quello che ho capito, sarà aspettare le motivazioni della Cassazione, per cui capire se la Cassazione, insomma, ha messo in discussione i reati di terrorismo da un punto di vista formale, o se invece la sostanza è in discussione, e da lì, insomma, gli atti verranno portati da Roma a Torino, sarà fissato un'altra udienza del riesame, e poi da lì segneranno eventualmente delle altre misure cautelari in corte d'assise. Questo è un po' il meccanismo, per quello che l'ho capito, però ripeto, è una cosa che avrà dei tempi, non necessariamente dei tempi brevi, perché sono tutta una serie di passaggi burocratici che richiedono tempi abbastanza lunghi. Poi c'è la chiusura estiva dei tribunali, quindi è difficile adesso avere un'idea eventualmente di quando ci saranno delle possibilità per richiedere delle misure alternative al carcere. Quindi la sentenza è una sentenza che ha messo in discussione l'intento accusatore della procura, però gli suoi effetti non sappiamo ancora bene quando si potranno vedere eventualmente. Senti, grande presenza appunto di compagni e compagne, ma anche presenza, insomma, dalla valle, ci sono molte persone al presidio. Sì, no, non c'è una composizione solamente militante, assolutamente, cioè, ci sono tantissimi compagni, sono venuti praticamente da tutta Italia, però c'è tantissima gente dalla valle, tantissima gente che ha partecipato in questi mesi alle varie iniziative che sono state fatte. Stamattina sono stati addirittura dei momenti di, insomma, di frizione, un po' di battibecchi, perché tutti volevano entrare, essere i primi a entrare, quindi insomma una situazione, e poi la voglia di vederli era tanta, non solo da parte dei compagni che li conoscono, ma anche da parte di persone che magari non li conoscono neanche direttamente, che li hanno conosciuti in questi mesi attraverso le lettere, attraverso tutto quello che si è detto. C'era molta calca, infatti vecchi, proprio per chi doveva entrare per primo, che poi si sono risolti naturalmente senza alcun problema, però significativo anche quello. Sentiamo volentieri, insomma, gli slogan che vengono lanciati. Sì, il clima è... non è un clima da... insomma, non c'è una situazione di sbatto in cui ci sono molti interventi, il clima è buono, cioè... una bella giornata. Bene. Senti, il presidio immaginiamo che si chiuderà quando si chiuderà l'udienza, e magari ci risentiamo, e poi, insomma, ovviamente per il proseguimento. Perfetto, va benissimo. Grazie mille. E grazie a voi. Ciao.